vediamo un po'. Non costa neanche molto, la verità. Quindi adesso non lo sto prendendo adesso, la verità, perché non la prendo adesso. Non la prenderò in seguito, la prenderò. Adesso mi interessa un'altra cosa. Però un'altra riserva me la voglio prendere. Quando stacco la manta va a pulirla, quest'estate cambio il palo e spuccia, rimetto un nuovo dentro e tanto ancora perfetta. La pulisco bene. Kappa, va. No, non ti compro già che 1.4 è stazionare, su cazzo della cosa, ma comunque. Va bene, dai, ti lascio Antonè che io devo andare a travagliare. Ciao, ciao. Ehi, tu c'hai 1.4, io c'ho 1.5 qua. Figurati. Perché il palo è rugginoso, capito? Quindi figurati, non sto facendo massa bene l'antenna, quindi non posso manco attaccare il lineare, se attacco il lineare guai, lo brucio subito. Ok, là, ci sentiamo, buon lavoro a stasera quando rientri. Ciao ciao. E via, ciao ciao. C'è qualcuno all'ascolto? Hola, hola. Sul 10, attento 10. Oh, oh, c'è qualcuno sul 10? Che è avanti? C'è qualcuno per un controllo? Dimmi, roba. Guarda, classe, sto uscendo con la Mantova, con la cosa a torre, però, perché c'è le stazionarie a 1000. Come sta arrivando? Con la Mantova, con le stazionarie a 1000. No, ho dovuto mettere la cordatore per abbassarle, probabilmente è un pezzo di filo elettrico la Mantova adesso, no? È come che non ci sia. Lo stesso segnale, sempre lo stesso segnale, 9.30. Non è successo niente? No, assolutamente no, 9.30. Chi è questo che c'è sotto qua? Se mi affrutta, ma chi c'è sotto? Se vuole entrare, entra, è inutile che metta la portante o fischia, cosa. 9.30 roba. E boh, i segnali sembrano buoni, tu sei più di 9.30, boh, strana questa cosa, boh. Te l'ho detto, roba, però ci sia qualche piella, qualcosa. Altrimenti, se fosse stato come hai detto tu, non usciva, o i segnali erano più bassi. Boh, speriamo che si sia messo a posto. Ok, dai, di là c'è qualcuno nelle altre bande? C'è Gianfranco con Walter, stanno facendo prove, controprove, non lo so, vabbè, io ho abbassato i volumi e sono passato qua. Comunque l'ho messo su il cavo, come si chiama, l'ho tirata giù l'antenna, ho filato e l'ho messo nuovo, il cavo nuovo, infatti volevo vedere se era cambiato, vabbè non credo che cambi niente, ma in ricezione bisogna vedere la trasmissione, siamo talmente vicini. No, bene, con me non le puoi fare queste prove, roba, cosa devi fare a lunga distanza. Hai visto quanto è facile? Hai tolto quel dadino, hai staccato quello e attaccato l'altro, senza attaccare l'antenna. L'ho solo sollevata appena, è infilata, e buio, è stato veloce, 10 minuti ci ho messo. Hai perso tempo a mettermi le fascettature e le cose così, se no gli andava bene. Però devo dire che quel palo, sinceramente, quei supportini, perché li ho messo, lo sai che i supporti c'ha quello lì, sono per le antenne TV, c'hanno quelli col tassello, c'hai presente quelle staffe a tassello, e non mi piace proprio nulla. Vabbè, quello te l'aveva detto anche Marco, mi sembra, non è ideale per un'antenna così, perché quella non è pesante, ma quando c'è il vento, quella flette, è forza sul tubo, quindi chiaramente la qualificazione deve deve essere fatta bene, capito? No, la faccio come le altre, quelle dove ho messo il dipolo, quelle cacchio sono omicidiali, proprio non oscillano, ma così muove. Qua ho visto il palo muove un bel, poi quando c'è il vento gli dà qualche colpo di frusta e quella si tronca e non voglio che arrivi a quel punto lì. Adesso quando c'ho 10 minuti vado, prendo due piastre, quelle quadrate, con tasselli, ne metto una sopra, una sotto, perché si muove troppo, è una gaggata, cioè non mi la metto a fianco a quello in modo che non devo smontare niente, devo solo infilarla poi dentro e faccio un lavoro migliore. Quel palo ne rugavo da Kibi che non vale a niente. Sì, il problema di queste antenne che abbiamo noi è che sono leggere, però quando c'è vento robe flettano tantissimo, comprime sul tubo, quindi se la staffa è buona va bene, altrimenti te ne può stracciare tutto, allo stesso tempo si può anche rompere l'antenna, capito? Ma poi volendo posso anche metterci un altro tubo più largo, la posso alzare di 2 metri per dire, con l'antenna, se è fatto bene il lavoro. Certo, da innestare in quel tubo lì già ne abbiamo di quei tubi. Certo, una volta che c'hai le staffe messe bene, allora puoi anche giostrare e tirare su qualche altro metro, un paio di metri, capito? No, non ci sono problemi, però così mi sembra troppo debole. Comunque la mantova sta uscendo, dai, meglio così, stazionarie le ho abbassate, ce l'ha uno, le Macusi Movi, lo smitter del 440. Vabbè, ma non è che c'era qualche problema su qualche PL interno, no, roba? Boh, non lo so, adesso me lo guardo bene con calma, adesso me l'ho soltanto voluto accendere, ho detto così almeno lo faccio camminare, perché sono da un po' di giorni fermo, da venerdì era questa radio, ossia che si sfasci. Ehi, si sfasci il problema del 440 di Rosegare. Se non lo usi è un casino, ecco perché io mi sono tenuto il 430 e 140 e 440 non voglio sapere più, se poi capita, pazienza, che mi entra, come dico io va bene, ma se no non biglio più, perché sono radio che chiedono molta manutenzione, capito? Non so, se vuoi passare a 525, ti ho detto, c'è volta con Gianfranco, io intanto le prove che stanno facendo non le posso fare perché non ho antenne, tu c'hai l'antenna, quindi puoi già iniziare a fare qualche prova, capito? Non c'è problema, Dai, ti aspetto qua, cerchiamo di andare tutti tranquilli, quello che è successo dimentichiamo tutto e cerchiamo di sistemare tutta la situazione e vediamo un pochettino di creare l'armonia. Io no, certo è un problema per quello, è che non ho antenne, ho capito, non ho antenne per fare prove lì, quindi non posso assolutamente fare niente, quindi vai tu e fai le prove, chiama 525, c'è Gianfranco con Walter. Ma perché, che prove dove sono? Su che bande sono? Non so, penso stiamo provando in 10 metri, 20 metri, c'è l'antenna e tu roba, tu con quell'antenna lì puoi andare dove ti piace, puoi andare in 10, puoi andare in 15, puoi andare in 20, puoi andare in 40, puoi andare da tutte le parti, quindi vai tranquillo, già vi ascolto io. No, mi dispiace, dai, cacchio, No, c'ero anche poco fa parlando, no, non posso fare prove, non ho antenne, roba, non ho antenne, capito, quindi non posso fare assolutamente prove, vai tu tranquillo, già sono qua io. Vabbè, tengo acceso anche qua, dai, non ti preoccupare, comunque già lo sai da parte mia. Eia, vai sereno. Attenzione, canale 10, cambio, c'è qualcuno? Gianni? Attenzione su 10, prego. Gianni. Eia. Ciao già, Luca, niente, un controllino se nulla e così me ne vado. Sto provando un M600, ho dato dei controlli Franco di Sosso, ottimo microfono con questa radio vintage. C'è una bomba, va molto bene. Il segnale è buono, già lo sai, dove è con lo scala. La radio è adesso sto aumentando l'amplificazione, mi hanno detto mettici un chiodo perché cazzo non ce n'è, io ti ascolto saturo con qualsiasi baracchino, non lo so il perché, comunque solo a te però, solo a te ho già, scusa se te lo dico, c'ho qua due baracchini. Nei giorni scorsi, provando, riprovando, a te ti ascolto saturo a morte, non so se attacchi qualcosa, buh. Guarda adesso che abbassa tanto Luca. Anche io ti sento saturo Gianni, ciao Luca, una bomba col microfono. Ciao Cla, l'M600 perché anche con un po' di eco non dovrebbe andare male. E allora non è mio l'apparecchio, capita Gitto, ma ormai è possibile che non c'è un giorno che non l'ascolto saturo, allora ho dato le copie ai baracchini, Gitto, e se nessuno vede di nuda vuol dire che inaugura un problema. No, io già ne glielo ho detto anche l'altra volta, pensavo fosse agganciato, però anche da sganciato io lo sento saturo. Se stai usando il Cobra, non lo so, il Galaxy abbassa la potenza, lo va a mettere al massimo, così vuoi ticca, non lo so, io lo sento saturo, però è sganciato perché il segnale è quello, è sganciato, quando è agganciato già me ne accorgo io. Sempre saturo, non lo so, saturo, oddio, è comprensibile, ma si sente questa saturazione sotto. Oh sì Gianni, sei sempre saturo, okay, ma non può essere che sia leggermente spostato, ma proprio leggermente, non è questione di lineare, invece può essere? Può essere anche, prova Gianni, si pulsa, Gianni, cazzo che ci fa lì con noi, proprio si pulsa. Forse sento il bip, forse è passato sul 23, che mi sembra c'era qualcuno. Allora lo lascio così, c'erano le connessioni, era dentro l'armadio questo microfono e ho detto basta perché non c'era bisogno neanche di fare le connessioni su questo vintage, questo è il vintage, quello che fa da 4 a 15, non c'è regolazioni, non c'è nulla, già l'hai vista, ti avevo mandato la foto, però sembra servire molto bene su questo baracchino, solo che questo baracchino qua non esce, deve essere esce con un watt e mezzo, una cosa del genere, perché facendo le prove con Franco gli arrivo 7 rispetto agli 8, ai 9 mi sembra con la Fayette, che anche la Fayette, quella che mi ha dato Roberto, esce sicuramente un paio di watt, anche quello, credo. Qua c'è Santiago 9 con picchia 9 più 5, devi abbassare appena appena per lui, perché rimbomba un bel forte, appena appena. Allora, dunque, adesso l'ho messo a 6 pacchette, l'ho messo nella quinta, lo slider. Io lo conosco col microfono, quella flessibile nero, già va bene. Sì, lascialo così. Gianni. Oh, yeah. Prova a vedere. Io mi sono ascoltato e non c'è nessuna saturazione. Qua, cioè, mi sono ascoltato in cucchia. Ah sì, un po'. Non lo so se si prende da lui, se si prende da me. Però qua non si sente nulla di saturazione, si sente perfetto. Ehi già, in cuffia non è affidabile. Allora, 430, 140, 757, Galaxy, ne vuoi ancora? Con tutte le radio ti ascolto saturo. Abbassa la potenza, guarda, stai usando il Galaxy. Mettila di meno la potenza, anziché al massimo. Gianni. Ha migliorato, ma c'è sempre. Boh, sembra uno spostamento, secondo me. Boh. Porca miseria. Non so capire con sempre che siamo a due passi. Ma saturi con 4 radio, 4 HF più il Galaxy Saturn Echo. Ti ho detto che radio stai usando, mi hai sentito? Ecco, la posizione del ref power, a quanto ce l'hai? Al massimo? Prova a baciarlo appena già, anziché al massimo quanto è? 50? Mettilo a 30 a vedere. Aiuto, i baracchini non si deve più modulare a quest'ora. Buonasera. Prova così. Guarda, ma a cazzo mai non ti fate altri che c'è un Galaxy già? Allora, scusa, non è affidabile lo strumento. Io ci ho regolato 10 watt e 10 watt, ma guarda che cosa deve essere 20, non già mi c'è un buio. Perché la tappa, non lo so, perché adesso si è abbassata la potenza, arrivi molto meglio, molto anche meglio. Ciao, Tino, buonasera. Avete parlato in due comunque Gianni, la radio tua, il segnale è alto, la radio per me è bassa, ma bassa di modulazione. Guarda un po' forte, sei Satura come radio. Sammy Cotarella. Non è. No, da parte mia non è Satura. Non è chiarissima, nel senso che sento la tua voce in lontananza, capito? Non è la tua solita radio. Ma sono lontano, per forza, guarda adesso se fa meglio. Allora cacchio, fare prove, scusa Gianni, scusa se te lo dico. La prova devi fare come parli solitamente tu, se no tu ti metti a 3 km dal mic e è logico che io ti dico guarda che la radio è bassa. Tu devi metterti in posizione d'attacco come solitamente fai. Ciao, vabbè, adesso sono vicino come sono di solito. Ciao Nannini. Ciao Luca. Adesso va bene, se io sono abituato a sentirti come tu solitamente moduli e poi ti cambi, è come che io modulo a una certa posizione e poi magari mi avvicino di 10 cm di mic e tende a strappare il microfono, capito? Vabbè, hai ragione, perché io mi sono alzato per sistemare, per accendere la luce d'acqua, per sistemare il power dell'apparecchio. Va bene, là, comunque, io mi sono ascoltato in cuffia e mi sento normalissimo. Andiamo e andiamo. Andiamo e andiamo, cazzo. Buonasera a tutti, a ci sentire, ciao. Tu hai abbandonato là, sei venuto qua. Cosa? Hai abbandonato là per venire qua. No, assolutamente, infatti sto tornando là. Mi sono ascoltato un attimo, ho sentito a Luca e sono andato a salutare. Grazie a Borgia. Va bene, dai, no, niente di giusto per farlo sapere. Beh, se sono qua non sono là, no? Noi viaggio dei goci. Adesso ci spostiamo di nuovo. Va bene, so che stai ascoltando la CB. Va bene, ciao Natale, ciao Luca, poi chi c'era? Ciao Tino, Spagliero si è abbandonato, se ne va sempre di là, se ne va, è un pedivella. Oh Tino, la mia antenna è morta, stramorta. Cazzo Natale, vengo qua, dammi un controllo, dammi quello, io dico una cosa, quello che dice un'altra, tanto vale sgagliarsi la muda è fascio. Avanti Tino, riprendi, correti per me, ciao a tutti. No, aspetta un attimino, qua sbagli, perché io posso sentire diversamente da te. Se tu lo senti saturo, io rispetto la tua, il tuo orecchio, nella mia stazione non lo sento saturo, ma non dipende, cioè dipende da come lo ascolto io. No, non sto dicendo a quello Tino, no. Io con quattro radio, quattro Kenwood, uno Iaesio e il Saturn Echo, lo ascolto sempre saturo. La modulazione non è chiara, bella come deve essere, come io sono abituato a sentire a Gianni, perché Gianni è l'unico che con l'eco esce molto molto bene, bello pimpante, bello forte, lo sento sempre con questa leggera saturazione, non so il perché, ma non solo io, poco fa anche Luca lo sentiva così, vabbè, comunque se tu lo senti meglio non lo so. Io su 4K 757 e il Galaxy stesso che uguale al suo lo sento così. Va bene, dai, vi saluto e mi sposto. Ciao a todos. Ciao Fatti Natalino, buonasera. Ciao Claudio. Ehi, cosa vuoi? Basta staccare, non esce Saturno uno. È sempre attaccato quel Gianni. Ma lo sai che lo chiamano Gianni il Caldo? No, ma Natalì, quello che ho detto io a Gianni, guarda che lui stava parlando in lontananza, ho detto come faccio io a sapere se stai uscendo bene o male, e parla come normalmente, come il tuo solito fare, no? Allora, io voglio dire le cose come sono liscio, non sono attaccato di niente e poi non sono sempre attaccato, Natalì. Attacco ogni tanto per provare, ma io lineare proprio non li uso, sono di quelli che non li uso a frutto. Lo posso attaccare per fare una prova, ma poi non lo stacco subito. Vabbè, comunque, da te come arrivo Natalino di radio? Ah, da me stai arrivando bene adesso. Adesso sì che sei liscio. Tanto quando attacchi ti scopro. No, ero liscio anche prima, ti giuro, mi lasciano i luci. Gianni Gargamella! Mi a Luca, quel cuoco, ma ne mi. A fanculo, a me ho mangiato sia a pranzo che poco fa a merenda. Come si chiama? Il tiramisù, ci ho messo un po' di caffè, ma Luca Maddo è di poco. Quello perché non l'hai offerto, e tu lo fai e lo pubblichi e non lo dai, vedi? Ah, non è un cavo bipolare, da prestarmi. dico, tu dico dal telefono, te lo dico. Che è già morta, ti è arrivata a pizzo una morte, mi sono incazzato, guarda, ma incazzato, ero troppo nervoso, mi dà tratta e tutta la pezza giù fatta. Ho tenuto i radiali e da lì, boh, se mai mi cambiate una mantova buona me li uso. Perché è morta? Che cosa ci aveva? Fabrizio mi ha detto che non si può fare niente, morta. E dove si è staccato il capo? Tutta ossidata dentro, dove c'è il attacco del piede, tutta marcia. C'era più un mediano, quanti anni ce l'avevi? No, cosa un mediano, non te l'hai chiamato da poco, Luca. Era di un'altra persona quella. Ho capito, scusati. Ho detto, guarda quanto che avevi tu, te l'avevi cambiata da poco. Cosa, c'era quasi 20 anni sul tetto. Non te l'avevi cambiata con quella, l'ultima che hai recuperato? No, quella l'avevo recuperata alla vicino di casa, capito? Io ho detto alla moglie, si è portata, sì, prenditela, poi l'avevo data a te, ti ricordi? E mi serviva un pezzo della mantova di quella là, ma non l'abbiamo trovata, allora mi sono incazzato, gli vedo la moletta, cazzo, ci vado a mille un pezzo. Sì, già non è che caspita, mi ricordo, ce l'ho. La roba niente, l'acqua, mi compro la di Franco, la compro. A poco. Cosa già? Spiegati come quella di Franco, quell'antenna come quella di Franco, la... come si chiama? Se non mi viene il nome. Quello lì, vabbè, se costa poco, sta una pesseria. Se non puoi spendere la volta, se no ti prendi la... come quella che ho preso io, la lemma che è buona. E a chi si fa una canna da pesca la fasi prima e prendi nulla. Le canna da pesca sono per andare a mare, la tarì. Lascia perdere che io con le antenne vie oramai le ho verso la croce. Servono per andare a mare e che siano buone, se no si spettano. Tino, se te ne di cura non ci credo. Sono andato all'Ipuglia, avevo preso questa canna da lancio, no? Sono andato a pescare, meno male ne avevo tre di canna, ne ho messi tutte e tre. La canna d'arancio, quella nuova, è stata la prima che ho lanciato. Come ce l'ha lanciata, si è truccata in due. E non vuoi questa canna a pure? No, io rispondo a Natalino, se mi compro la... o quella di Franco o la Jägermeister, la Jägermeister, non ti cazzo di giamma. Jägermeister, cosa si vuoi, mega? Non mi hai tirato a testa, attore? No, sono tornato e il padre stava dicendo, no, sicuramente l'aveva lanciato male lì, questo e quell'altro. Guarda che io c'avevo testimoni, c'ho tre persone che erano con me. E non sanno come lascia tutto quanto, quindi non c'è problema. Se me la porta bene me la cambia, se no io qua non ci torno più. Tu l'hai detto, no, non ti preoccupare, te la cambio, me la cambiato. Aspetta un attimo. Tu parte il giorno prima. Lui ha paura omecca, c'è questo stomaco sotto sopra. Vedi tu dice. Noi eravamo da troppo sotto a mangiarla e ci siamo fatti la polenta, ma cazzo si l'hanno mangiato due piatti, l'hanno mangiato altro. La polenta sazia molto. Sazia, mi sa che se la posso già, ne sa con l'antenna, chi sa, va la boomerang, la piazza a casa, provvisoriamente, ma non ci sta nel palo, non posso fare niente. Non posso far nulla, me la porto su in tram. Chiamami al telefono un attimino. A che? Ai, allora, ho sbracciato una canna a pesca che qua potevi fare tipo antenna, tipo quelle che si usano, si mette il cavo dentro, non so come un cazzo. A me stai dicendo? No, a Gianni. Non ti ho capito. Ho detto, quella canna a pesca la potevi fare tipo antenna, quelle che si mettono il cavo dentro e non servono a niente. No, aspetta, non so come un cazzo prima, non c'è pappa laurea qua. Te la regalo io l'antenna, vieni a pigliartela. Ok, arrivo. Se vuoi la gran pietra la regalo, nuova. Casino queste antenne, a volte poi si marciscono, va. Mannaggia. Però, boh, io la mantova secondo me è la migliore in assoluto. Sarà, boh. Vabbè, anche per me. Poi ce n'è un'altra che... la Turbo, cosa cacchio era, non la ricordo. Si assomiglia molto alla mantova. Già, ti stavo chiamando, che mi fai entrare alla segreteria, boh. Cazzo, come cuomare. E tu, Natà, risolto avevi con l'antenna? Sì, certo che ho risolto, ce l'ho qua l'antenna. E l'ho già comparata, però non l'ho già voluta piazzare ancora. perché ero impegnato, adesso la regalo a Luca, così mi ravvino e ti rampo tutto, tanto non c'è più nessuno oggi, anzi mi è raro, stasera chissà come c'è qualcuno. Vabbè, io ogni tanto entro, ogni tanto no, sono impegnato nell'altra stazione piccola, diciamo, facendo altre cose, quindi ho un attimo modulato, me ne a fare, quindi non ho, però vi ascolto sempre, dai, va bene meglio, va. E vabbè, dai, ci sentiamo, salutoni a tutti, dai, me ne passo in quel retti. Andare, siamo qua, dai. Gianni, hai abbandonato senza salutare. 10 giorni è importante anche a te. Scusa. Ciao T. No, stavo ascoltando, ma doveva telefonarsi con Luca, forse è al telefono, per quello. L'altro dove ne stai uscendo, ma è una vita senza sentirti. C'ero ieri notte, via Budapest, direzione Porto Torres. Andare, passeggiata da qui. Aspetti che alzo il volume, che sono al minimo. Ho detto di passeggiata, sì. Ieri sì, adesso sono a casa, stanotte vediamo se fare un giro, dai. Se ne è monotona la giornata. Bene. No, io mi sto aspettando, abbiamo una pizzata stanotte, quindi sto aspettando che arrivi, no? Leia, pensa, tu stai per cenare, io è mezz'oretta che ho pranzato. Ciu. Andare, vai, fate sentire, ci sentiamo, va, ciao. Tenterò, ok, ciao, ti buona pizzata. Ehi, altrettanto, buona serata. Hola? Hola, chicos. Hola. Attenzione, KK. Hola. E chi è avanti? Attenzione, KK. Hola, 1, 2, 3, prova. Attenzione K. Che chiama? Io sto chiamando. Antonio, sei tu? Ehi, sono io. Con l'antenna piccola, vero? E dimmi io. No, ho detto con l'antenna piccola dal segnale si vede. È 9:10. 9:10? Sì. Ho cambiato radio, Questo c'ha lo smitter a LED. Qui è 9:10, più o meno come era col 3009. Ma sei proprio sicuro che sia 9:10? Adesso che è cambiato è 9:40. Allora ti spiego, questo smitter a LED c'ha 9:60 di fondo scala, però credo che il massimo sia 9:45. Cioè non l'ho mai visto segnare più di 9:45. E tu sei 9:40. Capito, cioè 3009 più di tanto non segna, e qui 9:40 e 9:10 con la bazooka. E capì? Zucca K. Eia, questa è la Storm, da. Sì, si era capito, però guarda la differenza, 9:20 con 3009 e qua 9:40. E gli Smitter non sono tutti uguali. Questo c'ha, tra l'altro, fondo scala 9:60, ma non credo che ci arriverà mai. KK, se vuoi ti faccio arrivare un po' di piume. Zucca. Che è Natalino? E allora chi vuoi che sia? Sempre in agguato, oioia. E non lo sai. Comunque sto modulando con l'antenna piccola. Sì, la radio è ottima, cioè 9:10 in città va più che bene, non è che vada. Vabbè, Natalino, novità. Novità che sono messo male. Oggi sono andato al cardiologo che sono messo un bel male. E allora siamo in due, dai. KK, questa quella Sto usando il portatile con la Storm 27. Esce bene di modulazione il portatile, sembra abbastanza fedele. Che portatile era? Me lo ricordi? Cos'era il Midland? Intec. Buono. Già andava. Io mi ricordo tanti anni fa, quando modulavamo da Viale Mameli, io praticamente avevo la Grand Plain. Invece mamma nella sua stanza c'aveva un baracchino suo con la boomerang. La boomerang grande si è messa sul terrazzino, però più in basso. Ma scusami un attimo, perché tua madre modulava? Naturale. Ah, ecco, non l'ho mai sentita. Ma modulava nel 1984-85 e poi eravamo abbastanza bassi all'epoca come antenne. Aspetta, lo sapevano. Marco! Natali, mi senti abbastanza bene con la Storm e col portatile? Benissimo, ti sento. Marco, un interrogativo, non è che c'hai lo stilo della cosa, della boomerang per caso, non lo stilo di sotto? Ah, così va molto meglio, là. Ehi, per quanto mi incitava da bene anche l'altro. Allora, Natali, io c'ho una intera mini boomerang, non so se l'attacco sia quello, ed è della LEM. No, a me mi serve lo stilo, quello regolabile, che c'è sotto la boomerang, quella grande, che si può mettere in macchina, mi hanno detto. Sì, praticamente è come la frusta nera, la famosa frusta nera da... quant'era? 1,10 m, adesso non mi ricordo, 1,20 m, boh. Dice che funziona come un'antenna normale. Siccome io ho l'attacco uguale, praticamente ne tolgo una e metto l'altra l'antenna. Capito? E mi posso... perché c'è un baracchino piccolo da potermi mettere in macchina. Lo devo solo mettere un po' a posto perché c'è il potenziometro del volume andato che va a scatti. Natali, però la mia mini boomerang è al contrario, lo stub di taratura ce l'ha sul radiatore, invece il radiale è fisso, però il radiatore corrisponde, credo, a quello che mi stai dicendo tu, cioè il radiale della boomerang full size. Hola capa, volevo sapere. Sento, no. E così mi senti tu? Luca c'è. No, ho fatto una prova per vedere se mi sentiva senza capo. No, tu sei arrivato a Santiago 9 per un attimo. Prova. Capo, no, adesso già va bene. Ma bisogna vedere com'è l'attacco, Marco, di quella boomerang. Capito. Aspetta che la vado a prendere, che non me ne ricordo nemmeno io. Riprendete voi. Mi senti, Marco? Tanto se ti sentiamo. Senza antenna. Come senza antenna? Ma sei a casa tua? Sì. Arrivi 9, 9, 5. Ma senza antenna cosa ci hai messo? Ci avrei messo una boomerang, un carico fittizio. Sono con il capo, se uscire, col fuoco caldo. Ma ci avrei stazionaria a 1 milione. Sì, poi ti faccio di corso. Vai, tu scommetto che hai messo la mini boomerang e l'hai portata a casa tua. No, non ne ho. E scende Gurugavo. Ma brucia tutto. Col capo sta uscendo. Ma che non parlo più, dai, parlate voi. Sta uscendo col cavolo. Col cavolo fiore sta uscendo. Franco, mi senti? Da parte che ti ascolto, buonasera a tutti, dai. Io sto uscendo con la Storm, com'è? Basso di segnale, sì, ma già ti ascolto. Capa, quanto ti sto arrivando lì? Santiago sì, Radio 4. Ti vai in ora amara. Ma adesso cosa ha fatto? Qua sei 9+5, Anto, è calato appena. Ciao anche a California, buonasera. Natalino, riprendi che vado a prendere quell'antenna. Cappa. Farò vedere, migliorato adesso. Cappa, cappa. Qua la vado a buttare. Cappa, cappa, lo guariello. Sto parlando della Natale, me la compro. Natale. Io sono qua già. Io sono qua. Ammi senti. Ehi, già ti sento. Perché regge l'antenna, già vi sento. Quando me ne scende vuol dire non vi sento più. Ma così è. Già va bene. Adesso regalo quell'antenna a coso, a Luca. Roma si la piazza io, dato che io non ne posso piazzare la piazza lui. Quale antenna, Natali? La Game Master. Capa. E mi vendo tutto, non me ne frega più nulla. Tanto c'ho poco da campare a quanto mi stavano dicendo. Ma stai scherzando? Ma cosa si intende, Natali? Tu campi più di me, vedrai, te lo dico io. Sì, basta che non sia, sono messo male un bel. Prendi la vita come viene, in positivo. Antonio Bombolo. Dica. Ti chiedo una cortesia, me lo dai un controllo di segnale? 9.40 Radio 5. Guarda adesso 1, 2, 3, 4. È un bel forte, sì. Sei più di 9.40. K di positivo. Marco, è da te. Marco. Piatto, ma ero qua. E non un canale a fianco. Porca paletta, ho premuto il tasto. Dicevo, Franco, 9.40 a questo Smitter a LED e il fondo scala è 9.45, non è mai andato oltre. E ok, dai, vabbè, adesso stavo provando l'amplificatore. Vedi se c'è differenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non cambia qua. Può darsi che allora sia 9.40 al fondo scala, proprio non aumenta. Va bene, Antonio, allora dai, ok, grazie. Antonio, prova a attaccare tu. Allora, Natali, l'antenna c'ha quel maledetto attacco esagonale. Ti mando una foto. Sì, vabbè, ma se non si può attaccare nella macchina non mi interessa. Mi interessava quell'attacco VHF, di quello normale. Ma conta che tu hai l'attacco a galletto, quello con la... col galletto. Ehi. L'attacco a galletto, c'è una filettatura, no? Qui basta trovare una vite, magari si trovano, per il doppio maschio, in modo da collegare la femmina di questa antenna al tuo galletto. Ehi, va bene, la staffella, tutti giù. Se non ne posso piattare, non ne piattanto, non mi devo vendere più. Vabbè, diciamo sempre così e poi non vendiamo mai nulla. Fregatene, già ci sono le cure. Oh, Natali, bene o male, la medicina sta andando avanti, anche gli abusi, però non tocchiamo quel tasto, da. Ma che problema c'è, Natali? Un problema che cura non c'è. No, non pensi che cura non ce n'è. Ora, avanti! E bene tu! Ehi, allora! Sono con l'antenna accordata perché c'ho le stazionarie alte. Mia Roberto Quadratto, mi. E chi è questo? Marco, ciao, dopo mille anni. Certo, già un giorno senza sentirti, Marco. Eia, sono contento delle novità, avevo appreso e sono veramente contento, anche perché tu sei abbastanza appassionato, ecco. Non sapevi tu perché del fatto, dai, del misfatto, dai, comunque ciao Antonio, anche a te, vai di nuovo Antonio e poi continuiamo il discorso. Sì, eccellente, Roberto, vi ascolto anche in VU. C'è molto da imparare comunque, dai, io sono all'elementare, anche se magari c'è qualcuno che lo stesso non è un granché, però Mario è convinto di sapere un sacco di cose. Io avevo l'umiltà di dirlo, che devo imparare. Sì, poi lì ti puoi sbizzarrire, ci sono un sacco di frequenze, un sacco di tecniche, un sacco di modi di emissione, e già ce ne sarà di roba da fare lì. Lì non ti stanchi mai, se hai un po' di fantasia. Lo credo, c'è un bel di roba. Ah, tu ci sei? Come sta uscendo? Perché c'ho la stazionaria a 1000 con la Mantova. Sono accordato, non so se il segnale sta andando, 9.40 questo Smitter, in fondo scala, tutti 9.40 sono. Franco, California, Antonio, Natalino. E anche tu sei 9.40, anche se forse qualche volta ci hai sentito un po' più forte, buh, non lo so. Sono 10 watt, utili dai, 10 watt solo, non ho linea retta. E a te cosa ti è successo, Marco? Perché avevo chiesto tempo fa, e non mi ricordo a chi è, che forse ti ha pure telefonato a vedere come non ti eri più fatto sentire. Un po' di calo di interesse, sto cercando di uscire di più, di dedicarmi altro a altri hobby, altre cose, se no è alienante, dai. Vediamo se Natalina voglia rispondere. Natali. Sì, già sono qui. Natali, tu sei più lontano, come mi ascolti rispetto al normale? Uguale. Altissime. Probabilmente si è rotto il polo caldo del PL, adesso insomma è un po' problematico abbassare l'antenna, quando iniziano le giornate piano piano la riabbasso. Marco. Ehi, a Luca, vai sul 20 un attimo. Sì, un po' stiamo tentando di riagganciare quel discorso. Non posso parlare, sono Lucio Palacchino. Luca, tu mi ascolti? 9. Come? Santiago 9. Ma sono più basso del normale? Io non c'ho l'antenna, Roberto, ce lo usavo col capo. Non è risolto perché? È giù, l'ho smontata, rotta, buttata. Come? Buttata. Ce l'hai buttata? Capo. E come la stai uscendo? Con il capo solo. E allora siamo in due, mi Luca. Ma loro ti arrivano molto più forte di me, per dire, Marco? Sì. E quanto è che cazzo, è 9.40. 9.30, Marco. Quindi proprio non sto uscendo niente. E a te invece, tanto quanto sto arrivando? Che cosa si segna? 9.40. Luca, strano, a Luca gli sto arrivando 9. Ma è senza antenna, c'è il cavo solo. Ola. Guardate a vedere com'è il segnale. Ola. E sei calato adesso, tanto sei meno di 9.20 da me. Sono con l'antenna piccola, va bene. Cosa vuol dire antenna piccola? Con la Storm e la Ringo. E allora già stai uscendo bene, sei quasi 9.20. No, mi stavo preoccupando io, ho detto cacchio, manco ricezione funziona. Luca sta arrivando 9 da me, quando era a posto lui e io arrivava a 9.25, quasi 9.30. E scendi con un capo e scende. Dove c'è un cazzo di baracchino, se no. Questa qua è la piccolina, la Storm. No, già ti ascolto bene, segnale ti ripeto 9.20. Marco lo ascolto 9.40, però sicuramente in lontananza per Don Bay, qua in città forse perché siamo troppo vicini. Guarda bene con questa. E qua c'è 9.30 abbondante. Vabbè che ciamba. Vabbè, a me mi è arrivato il panino, là, ci sentiamo dopo. Ok, dai, buona mangiata tanto. Vai Marco. Sì. Stavo cercando di fare questa foto per Natalino, però la batteria è bassa e non mi fa inserire il flash. Comunque Natali, io do un'occhiata, vediamo se ho qualcosa di viti, di doppie viti, quelle col passo diverso, col diametro diverso e col passo, vediamo se, perché l'antenna è integra, cioè lo stiro è come nuovo. E poi, guarda che il radiale comunque è risonante, è fisso, ma metti che sia risonante sul 20, è come avere una frusta nera, è un po' più corto però, Ma lo sento, Natali, sì. Un po' giù. Vabbè, dimmi Robe. No, non lo sento Natalino, ma sta parlando. Natalino. Tardi, ciao Roberto, ciao Natalino, ciao Marco, ciao anche Antonio, per me QRT. Ciao Roberto, 9.40 il tuo rapporto di segnale. Quindi sto uscendo, dai, qualcosa va, perché sono con l'antenna accordata con l'accordatore, sicuramente c'ho le stazionarie a manetta. Tu sei 9.30, ben sentito Franco e buon QRT, dai. Capo di positivo, ciao Roberto, ciao a tutti, anche a quelli che sono in ascolto, per me in QRT. Ciao Franco, buon tutto, alle prossime. Allora, radiale, qua, comunque Natali, provare non costa niente, basta dare una rosmetrata, capace pure che sia centrato sul 20. Niente da fare, Natalino non risponde. Ah, pensavo che io non ascoltavo, no, non lo senti neanche tu. E tu l'antenna tutto uguale, apparati uguali, Marco? Sì, nonostante vento, tempesta e tutto, l'antenna non ha, sempre dritta, bella dritta, tre radiali, ci sono tutti. Incredibile. Come avevo detto a qualcuno, non credevo che sarebbe durata più di 2-3 anni, no. Invece sì, è più sottile, ma offre anche meno resistenza al vento, no? Essendo più sottile, quindi sarà più fragile, cioè meno resistente, ma c'è una superficie esposta al vento minore, e quindi siamo pari e patta. Funziona bene, controllato le stazionarie, uguali a prima. L'apparecchio attualmente è un CRP 7009. Ma cos'è, la Game Master l'hai messo? No, Game Master io. No, è sempre quella in alluminio, quella tipo BA27L, come si chiama? La Energy 5 ottavi. Ah, è rimasta sempre quella l'antenna? Sì, sì. L'avevo messa 2014, robè. Quindi fra poco fa, quant'è, 8 anni, devo fare il conto. Io invece l'ho messa nel 2005, ha fatto, quanto siamo, 2022, 17 anni c'ha con l'antenna che ho io. È la prima volta che mi ha dato problemi, devo vedere un pochettino, solo che ci sono 2 metri di palo, doppie ralle, è un problema buttarla giù, adesso c'è freddo, non ne ho voglia. Ma la tua è un'antenna con la maiuscola, questa è un'antenna un po' economica come fattura, ma non economica come prezzo d'acquisto, perché il caro Tonino se la fa pagare 90 euro alla GBC, capito? Poi, Robè, non so se sapevi che l'ennesima antenna Grazioli, cioè questa volta ha battuto se stessa, è una cosa folle, la G-Max Grazioli, l'hai vista? Sì, e cosa è successo? Allora, ha fatto un'antenna collineare per i 10 metri, per gli 11 metri, 11 e 10 metri, praticamente una collineare, un quarto d'onda e una 5 ottavi, una sopra l'altra, messa in fase, cioè lo stilo parte, no? Cioè i radiali sempre da 2,70, no? Quindi 4 radiali enormi. C'ha uno stilo da 2,70, poi c'è una grossa bobinona che fa da messa in fase, non ho capito, dei due stili, e poi uno stilo da 5 ottavi. Altezza totale del radiatore 10,30 m. Altezza totale dell'antenna, compreso il tubo alla base, quindi totale di altezza 10,80 m. Radiali da 2,70 m, praticamente un elicottero. E c'è un guadagno di, loro dicono, rispetto ai 3.6 dB dalla 5 ottavi o 3.3, quella dovrebbe essere 5,5 grosso modo. Un'antenna enorme, le prestazioni saranno impressionanti paragonate a una 5 ottavi normale. E poi alla fine quello che cambia è sempre nell'ordine dei decibel, però quel mezzo Santiago potrebbe anche rubarlo, è una 5 ottavi. È una cosa impressionante, persino superiore a quelle enormi tipo le Vector, quelle tre quarti d'onda, 6 ottavi come lo chiamano, tanto uguale, le Vector, le J-Pol, quelle antenne lì. Cioè ancora più estrema. Poi credo che si dica così, Robè, messa in fase, c'è un quarto d'onda sotto e un 5 ottavi sopra, è un'antenna unica però. Accoppiate quindi sono, tipo sì, ho capito, un bel sistema, importante, dai, niente, non la conoscevo, no, non guardavo mai su internet, hanno fatto le prove comparative in diretta, nel senso con le altre antenne. Qualcosina, su YouTube tu metti Grazioli G-Max, credo. Grazioli G-Max, sul sito penso sia del produttore, ha fatto qualche prova, vabbè, lì praticamente lo esprimono in decibel metro, io non conosco quella, l'ho sentito nominare ma non conosco quell'unità di misura, ma siamo nell'ordine di un quarto di Santiago, mezzo Santiago massimo in più, da qualcuno non ha variato invece, lo sai, rispetto alla 5 ottavi, dipende molto dallo smitter, non so da cosa dipenda. Quello che fa la Grazioli era un tecnico che lavorava alla Mantova, non so se sia il cognato della Sigma, dei titolari della Sigma, si è messo a fare antenne leggermente superiori per cercare di bruciare il mercato, e piano piano si sta facendo con noi. Ho trovato il video, Grazioli G-Max. Ehi, aspetta che stiamo lasciando in bianco gente, chiamiamo a raccolta, c'era Natalino, Franco ha chiuso, Natalino, Antonio Sheik. Già ci sono, ma era la Sirio, era? Sì, era socio Sirio, uno dei fratelli forse era, e poi si è messo in proprio e ha fatto quest'ultimo mostro collineare, adesso non so, dovrebbe essere, robe, una 7 ottavi d'onda, perché 5 ottavi più 2 quarti d'onda che sarebbe, ma scusa, 2 ottavi d'onda che sarebbe un quarto d'onda, 5 più 2 7, 7 ottavi d'onda, dai. Scusatemi un attimo, mi devo allontanare, vai, riprendo tra poco, dai, vai, vengo subito. E io, Natalino, ci sei ancora? Boh, sparito di colpo, ma non ho capito se questa notizia gli è arrivata adesso. Oppure, Come esco con questo apparecchio? Bene, 9.5. Scappa, questo qua è cosa, Metinese, l'Alfaiette Zeus. Allora, c'hai una lieve alternata sotto, molto lieve. Già lo so, c'è QRM, strano. No, premi bene prima di parlare spento, che c'ha mezzo secondo di ritardo quel baracchino. Cioè, da quando premi a quando inizia a trasmettere passa circa mezzo secondo, quindi tu premi e dopo inizi a parlare. Ha detto, non c'è QRM, che strano. Ma c'è la Storm, è piccola e corta a corta, che QRM vuoi prendere? Sì, è strano. Adesso provo a attaccare lì l'aro 87 proprio. Questo schifo di boomerang non si smonta. Devo pigliare le pinze. Adesso provo con l'altro. Sì. Stazionarie le avrei controllate, sì, sicuramente sì. Sai che provo con l'altro apparecchio? Sì, ho capito. Prova. 1, 2, 3. Hola chicos, che cazzo, rindo un portatile. 9 più 10. È così com'è? 9 più 10. Com'è così? Sempre 9 più 10. Non ho aumentato il segnale. Ma qua no. Cappa. Hola, lì va un po' meglio, no? Qua è uguale, Anton, non so se tu stia modificando la modulazione, ma il segnale a LED, vabbè, tale quale. Cioè, così è sempre... No, è sceso a 9. Ciappa. Guarda ora, com'è? 9.5. Così 9 più 10. Eia. Ciappa, ma aumentano un bel stazionario. Ma la Storm stazionaria, quella dovrebbe essere esente, almeno la mia era così. Gli ho messo un cavo di lunghezza diversa da quella che diceva il manuale, lunghezza casuale, non ne aveva stazionarie. Ma è perché è un carico fittizio, grazie. Ma cosa ne occupo? Guarda a vedere così com'è adesso, tutta potenza. Sempre uguale. Lo abbasso un po'. Così già va bene, dai. Figa. Riesci a vedere sta vita un attimino, anche mi sto facendo delle misurazioni. Gaffa, porta il segnale, cioè sempre 9.5. Sì, Anto, non è che cambi tanto, cioè se metti tutta la potenza 9.10, se abbassi appena è intorno ai 9.5 così. E già andava, Gaffa, ma è meglio con questo, va. Ramara. Così com'è. Fondo scala. Ma diciamo che già va bene, dai, per fare qualche chiacchieratina così già andava. Per carità, questi farabutti dalla Lemma hanno fatto il passo diverso, cioè lo stilo come l'ho visto c'ha un passo e il radiale c'ha un passo diverso, vai in Ramara, vai. E quindi non si può montare sull'attacco a galletto lo stilo come voleva fare Natalino. Bisognerebbe trovare una vite dello stesso diametro ma di passo diverso. E indi la ciappo. Ah boh, quello non lo vuoi dire tu. Non lo so. Boh, forse su internet basta mettere il diametro, il passo di una filettatura e di un'altra, vedere se c'è qualcosa anche da tagliare, che qualcosa avevo visto dai siti cinesi, c'hanno un po' tutto quelli, sono matti, da AliExpress. Ma perché cosa le vuoi fare tu? Questa boomera. Sentito, Natalino prima aveva detto siccome praticamente lo stilo di questa boomerang è... qui giro il cellulare a terra la bagazza. Cazzo! Oh, e non si è rotto, è caduto un bel di volte anche di vetro, mi, in mezzo all'asfalto non si è mai rotto, è un miracolo. E suga. Oi, oi, oi. E comunque là, anche la torme piccolina, ma già si fa sentire. In vicinanza sì, però appena appena esci dalla città, hai visto già da coso, caspita, c'è passato proprio limitrofo alla città e crolla il segnale, vabbè. Già lo so, ma è strano però, cazzo, un po' strana questa storma, ce l'ho tanti anni, ce l'ho. Sì, l'avevo provata anch'io in terrazzino, però sai cos'è, se la metti sul tetto, ancora ancora appare con tutta Sassari, ma se la metti al piano stradale, come qua, non vai, non esci a Lugo, non vai da qui a Cappuccini, non arriva. E da rosso sul tetto è quella là. Sì, infatti tu sei, diciamo, fortunato che la puoi mettere lì. Qua, vabbè, questa è un'installazione, vabbè, definitiva, tra virgolette, non posso salire e scendere, non, mi rompe le palle anche a me. Kappa. Comunque già va bene lo stesso, comunque. Sì, ripeto, però avendo già l'antenna grande sul tetto, in realtà l'altra, che senso ha un po'? Cioè, se non hai, a meno che tu non sia in due stanze separate, no? Tipo salone, stanza da letto, allora, capito? Se ce l'hai nella stessa stanza, il cavo che arriva non ha molto senso, tu. E se a me un giorno mi va di sentire in due canali diversi? Cioè non posso sentire. Ah, per quello l'hai fatto, sì, quello già aiuta.